Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Amici di Blu Radio Veneto, ancora una buona giornata, bentrovati. Andiamo anche a salutare Carlo Garofolini, direttore dell'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che ogni settimana ci racconta un paio di casi che coinvolgono proprio l'ADICO. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, l'argomento che tocchiamo oggi ha a che fare con i denti. I denti quando ci sono i denti di mezzo sono dolori, sia perché un dente può fare veramente molto male, tanto da far impazzire a certe volte, ma anche sono dolori per il portafoglio, perché quando bisogna mettere mano ai nostri denti, di solito scuciamo parecchi soldini. Cosa è successo questa volta? Sì, è successo praticamente che il nostro socio si è rivolto all'Adico perché lamentando che dopo essersi sottoposto a un delicato intervento odontoiatrico in un noto e molto pubblicizzato studio dentistico, ha cominciato ad accusare forti dolori alla testa e alla mandibola e si è ritrovato con un impianto dentale incompleto, nonostante il socio ha pagato anticipatamente 15.000 euro. Cosa succede? Che a una prima richiesta risarcitoria inoltrata poi dallo staff legale dell'Adico alla clinica di restituire tutti i soldi per il lavoro che non è stato fatto in maniera adeguata, la clinica ha negato qualsiasi responsabilità a proprio carico. È stata fatta una perizia ed è risultato proprio che la perizia precisava come si ravvisano dei profili di responsabilità professionale sia per le mancate cure molare superiore destro che per l'errato confezionamento della protesi inferiore, venendo meno alle richieste del paziente in merito al ponte circolare inferiore, lasciando una zona edentula e mettendo a rischio il lavoro fatto. Quindi praticamente una perizia che ha detto che il lavoro che è stato fatto male, e la beffa vuole che oltre ai dolori il socio deve tirare fuori altri 5.000 euro per cercare di porre rimedio a quello che è un lavoro che è stato fatto malamente, di cui, come detto, ricordo, è stato pagato anticipatamente. Ecco, questa è una cosa che è veramente brutta se ti capita, nel senso che tu hai dei problemi, speri di risolverli, ci metti anche parecchio denaro, perché 15.000 euro non sono pochi, e poi ti ritrovi magari a stare peggio di prima, con mal di testa e male alla mandibola. È chiaro che la clinica in questo caso, non dando riscontro a quelle che sono state delle richieste evidenti, certificate e ragionevoli che il socio ha fatto, che era quello praticamente di intervenire per porre rimedio a un lavoro che appunto non è stato fatto a regola d'arte, a questo punto l'ufficio legale dell'Adico ha pensato di chiedere indietro tutti i 15.000 euro dei soldi che la persona ha speso, ma anche in questo caso i danni morali che la persona ha subito in questo periodo, che come ricordo sta accusando dei forti dolori, e oltretutto quelli che sono i soldi necessari per poter ripristinare il mal lavoro eseguito. Quindi una vicenda che si sta sviluppando in questi giorni, che può che diventa anche un'occasione per ricordare come tante volte non si può parlare male di quel fenomeno di migrazione verso paesi dell'est che tante persone optano in questo momento di crisi, perché magari come signore non potevano avere 15.000 euro e altri 5 adesso per poter sistemare quello che è una necessità incombente e che riguardava appunto la salute del nostro socio. Sì, addirittura ci sono persone che chiedono dei finanziamenti per riuscire a rimettersi a posto i denti, perché certe volte per alcuni diventa invivibile anche masticare, mangiare, quindi c'è necessità insomma di effettuare queste operazioni, queste sistemazioni. La vicenda si concluderà come, secondo te? Torneremo a parlarne? Ma certamente Francesco torneremo a parlarne, ma così come la clinica si è comportata, e vediamo che è una famosa clinica di Spinea in provincia di Venezia, certamente ha indotto il nostro ufficio a passare dalle buone alle carte bollanti, perché certamente si poteva risolvere in maniera molto più tranquilla, riconoscendo quello che era un po' il lavoro mal eseguito e cercando meno di poterlo riparare o porre dei rimedi. È anche vero, come ho detto, oggi c'è un fenomeno che è quello legato alla migrazione verso i paesi dell'est per curarsi i denti, ma è anche vero che in un'indagine effettuata a Radico un po' di tempo fa per comprendere quali strategie le famiglie adottano per arrivare a fine mese, una delle cose che più comunemente capitano è che le persone dichiarano di aver tagliato sulla spesa sanitaria proprio perché soldi non ce ne sono. Io penso che quando una persona arriva a spendere 15.000 euro e adesso ne va a spendere altri 5.000, non è giusto che scenda a dei compromessi, ma che si veda almeno il lavoro eseguito bene. Eh sì, è il prezzo di un'automobile, ce l'hai in bocca, vabbè. Bravo. Quindi, insomma, non è cosa da poco. Vabbè, staremo a vedere come andrà questa vicenda, sicuramente nei prossimi appuntamenti con l'Adico, insomma, quando ce ne sarà l'occasione torneremo su questo argomento. Intanto, Carlo, io ringrazio te, ringrazio l'Adico, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Sì, io ricordo, Francesco, che l'Adico è sempre aperta nel mese di agosto e per qualsiasi problema le persone ci possono contattare dalle 9 alle 19, salvo la pausa pranzo, e che come ogni anno l'Adico è sempre vicino ai consumatori anche durante il periodo delle ferie. Grazie quindi, Francesco, a te e al tuo lavoro e un saluto sempre a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.